Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Bernabò Bocca e Sina Hotels. Gli alberghi e lo stile italiano. Di Alessandra Scaglioni. 10 hotel di lusso in Italia, clientela italiana e internazionale, prospettive di sviluppo in Europa, ma soprattutto impegno per la crescita del settore turistico italiano. La storia d'impresa che raccontiamo oggi è quella di Sina Hotels, guidata da Bernabò Bocca e fondata dal padre Ernesto, esponente di una famiglia importante nell'imprenditoria italiana, nella metà degli anni 50 a Firenze. Inizia per caso, la storia della famiglia nostra è una storia industriale, noi avevamo delle concerie, avevamo la CIR, quindi società quotata in borsa, fino da metà degli anni 800, se non che mio padre nel 1956, da frequentatore di alberghi, si innamora di un palazzo a Firenze, lo compra, lo trasforma in un albergo e il Grand Hotel Villa Medici inaugura nel 1959 con la visita dello Shah, che venne a Firenze in quegli anni, che quindi soggiornò al Villa Medici, quindi con questo grande vernissage. Lì iniziò la storia alberghiera della famiglia nostra, con la vendita poi delle CIR nel 76 a De Benedetti, e quindi concentrando il business della famiglia sul business alberghiero turistico. Quindi inizia per caso e diventa poi il core business della famiglia. Sin dall'inizio le caratteristiche del progetto imprenditoriale sono ben definite, sia come modello di business che come stile e mercato di riferimento. La filosofia è sempre stata duplice. La prima filosofia è stata quella di acquistare sempre gli immobili dove noi andavamo ad operare. Questo per avere anche una tranquillità dal punto di vista patrimoniale e per considerare anche gli alberghi come delle case nostre. E la seconda, di creare un gruppo che fosse un gruppo italiano, che fosse un gruppo omogeneo, quindi con strutture che fossero omogenee l'un con l'altro, nelle principali città italiane, tanto è vero che noi oggi siamo presenti a Milano, Venezia, Roma, Firenze, e un gruppo in cui il cliente straniero, venendo, potesse respirare il famoso lifestyle italiano di cui noi andiamo fieri in giro per il mondo. Il gruppo di hotel di lusso cresce di anno in anno, da Firenze a Roma a Milano. Ha funzionato da subito, perché dopo Firenze è seguito l'acquisto del Bernini Bristol di Roma, dei due alberghi a Milano, il della Villa e il Grey, Venezia, e quindi devo dire che oggi il gruppo nostro, soprattutto sul mercato sia nazionale ma anche americano, è un gruppo che viene riconosciuto come un gruppo italiano, e devo dire che questo per noi è un grossissimo valore aggiunto. I figli entrano giovanissimi nell'azienda e nel 1990 la gestione del gruppo passa a Bernabò Bocca, presidente, e alla sorella Matilde, vicepresidente. Sina Hotels resta un'impresa a proprietà familiare e anche le caratteristiche della sua gestione. Assolutamente sì, perché dopo la morte di mio padre nel 1990 il gruppo è gestito da me e da mia sorella. Io vivo a Firenze, che è la sede del quartier generale del gruppo, mia sorella vive a Roma, ma noi passiamo la settimana a visitare gli alberghi, che per noi sono come delle case nostre, sono come dei figli. Infatti, quando qualcuno mi chiede qual è l'albergo che preferisci del tuo gruppo, non riesco mai a rispondere, perché come tutti i figli sono sempre tutti uguali. Però c'è una cura costante da parte della proprietà, e per questo i manager del gruppo nostro sono contenti, perché dicono che nella nostra compagnia, al contrario di altre compagnie, anche i processi decisionali su quelli che possono essere le scelte strategiche, gli investimenti, sono molto rapidi, perché c'è un contatto diretto tra management e proprietà. Clientela internazionale, ma non solo, per scelta di Ernesto Bocca, una scelta che ha permesso al gruppo di affrontare anche momenti difficili. Guardi, racconto un aneddoto. Una volta mio padre era in Spagna e era seduto nella hall di un bellissimo albergo di Madrid, e a questo punto si presenta un cliente americano, chiede se c'era posto e gli viene detto dal ricevimento dell'albergo che l'albergo era completo. Dopo 5 minuti si presenta un cliente spagnolo, chiede se c'era posto e gli danno la camera. Allora mio padre fu incuriosito da questa cosa, chiese di parlare col direttore e gli chiese: ma come mai l'americano non gli avete dato la camera, lo spagnolo sì? E il direttore disse: perché la logica della nostra compagnia è quella di avere sempre, non scendere mai sotto il 40% di clientela locale, perché la clientela locale è una sorta di assicurazione sulla vita. Noi siamo un gruppo spagnolo e vogliamo quindi avere molti spagnoli come clienti nei nostri alberghi. Mio padre tornò in Italia, adottò subito per il nostro gruppo la stessa filosofia, che è una filosofia che negli anni in cui il dollaro era 2.000 lire ci ha ovviamente penalizzato, perché noi cercavamo di non scendere mai sotto il 40% degli italiani. Ma è una strategia che a lungo termine ci ha premiato, perché oggi noi abbiamo una fortissima componente di clientela italiana, di business e di turismo, che voglio dire ci dà grandi soddisfazioni. Sì, ed è quello che ci ha fatto superare i momenti di crisi, ci ha fatto superare quando gli attentati terroristici non facevano più girare gli americani. Noi abbiamo continuato ad andare bene perché gli italiani sono quelli che ci hanno sempre salvato. Tra i clienti degli alberghi vi sono regnanti, aristocratici e personaggi celebri del mondo della cultura e dell'arte, e anche qualche cliente inaspettato. Ma io dico sempre che il nostro è il lavoro più bello del mondo, perché noi viviamo di episodi, viviamo di aneddoti, ed è quello che rende affascinante poi il lavoro del turismo. Quindi aneddoti ce ne sono tanti. Quello che noi sentiamo più vicino è quello che è successo nel nostro albergo di Villa Matilde in Piemonte. Villa Matilde era una casa nostra di famiglia da più di 100 anni, casa dove io quindi ho trascorso tutta la mia infanzia. A un certo punto abbiamo deciso di trasformare questa casa in albergo, perché la nostra famiglia si è allontanata da Torino e quindi non riusciamo più a viverla come casa. L'operazione si fa nel 2005, noi siamo pronti per aprire nel 2006 la struttura per le Olimpiadi invernali. Ci viene fatta una prenotazione 4-5 mesi prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali da parte del governo americano per ospitare la squadra di sci e di slittino. Ci chiedono addirittura di costruire delle stanze per mettere gli slittini dentro. Dopodiché, 4 giorni prima dell'arrivo di questa squadra di slittino, riceviamo una telefonata dicendo che non si trattava della squadra di slittino, ma si trattava del presidente degli Stati Uniti con la moglie e con Rudolph Giuliani, all'epoca sindaco di New York. E quindi abbiamo inaugurato questo albergo bellissimo, comunque però in un paese piccolo del Piemonte, insomma, con la visita del presidente degli Stati Uniti, e per noi è stato un motivo di grande vanto. Nel 2000 Bernabò Bocca diventa presidente nazionale di Federalberghi e guida un settore dove ci sono molti imprenditori, ma dove le catene alberghiere italiane sono pochissime. Sì, diciamo che in Italia ci sono poche catene alberghiere italiane, e di queste poche, alcune di queste derivano da operazioni che poco hanno a che fare con il settore dell'ospitalità, sono magari operazioni industriali, sono operazioni finanziarie che erano finalizzate ad altri traguardi, ad altri obiettivi. Ci sono però molti alberghi singoli, molti alberghi individuali, e il fatto che in questi ultimi 2 o 3 anni i fondi strategici stranieri, internazionali, abbiano investito acquistando alberghi in Italia significa che l'appeal dell'Italia turistica nel mondo continua a essere molto forte, e c'è una grossa fiducia da parte degli investitori stranieri nel nostro settore, e questo, voglio dire, ci deve rendere ottimisti. Lo stile italiano che affascina nella moda e nel food funziona anche nell'ospitalità. E il settore del turismo rappresenta per l'Italia il 9% del prodotto interno lordo, con relativo peso in termini di occupazione indotto e senza la possibilità di delocalizzare. Ma c'è molto da fare. Ma oggi innanzitutto i mercati turistici importanti sono i mercati cosiddetti emergenti, quindi noi dobbiamo fare una forte azione di promozione del prodotto turistico italiano nei confronti di quei mercati. Mi riferisco soprattutto al discorso del Far East, che non è solamente la Cina, ma anche tutti i paesi intorno alla Cina. Mi riferisco al Brasile, mi riferisco alla Russia. Per fare questo noi avremmo bisogno di investimenti forti nell'ambito della promozione, con un ente unico che faccia promozione dell'Italia, non solo del turismo italiano, ma di tutte le eccellenze del nostro paese. Oggi viceversa, il fatto che il turismo sia competenza esclusiva delle regioni, vediamo alcune regioni che fanno pubblicità o promozione per conto loro, partecipando a fiere con stand lontani dallo stand dell'Italia, quindi alla fine spendiamo più degli altri ma in maniera disorganizzata. Quindi io credo che bisognerebbe, approfittando di questa riforma della Costituzione che il Parlamento si sta prestando a fare, riportare il turismo come materia nazionale dello Stato centrale. in maniera tale che si riesca ad avere più forza di massa negli investimenti, soprattutto nel campo della promozione. E in secondo luogo le infrastrutture. Non possiamo essere un paese turistico senza infrastrutture, partendo dai collegamenti aerei. Il tema dell'Alitalia oggi è un tema attuale sul quale credo vada trovata comunque una soluzione, perché l'Italia turistica ha bisogno di una compagnia di bandiera. E poi tutto il discorso delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, cioè ci vuole un sistema di trasporti che non sia solamente l'alta velocità Milano-Napoli, ma che colleghi tutte le bellissime regioni del nostro paese. Oggi Sina Hotels ha un fatturato di 40 milioni di euro, 350 dipendenti, 10 alberghi nelle città italiane, ultimo quello aperto a Venezia sul Canal Grande. E le prospettive sono quelle di arrivare a breve nelle città europee. Sì, noi vorremmo internazionalizzare il gruppo a questo punto, perché noi siamo presenti comunque nelle principali città italiane e ci manca una presenza sui mercati esteri. Londra ovviamente è il sogno di tutti, stiamo lavorando alacremente e ci auguriamo che insomma prima o poi si riesca a trovare un immobile a Londra che sia comunque omogeneo col resto dei nostri alberghi. Da Londra si riesce ad accedere anche ad altri mercati che per noi sono mercati molto importanti e quindi una presenza per noi con un albergo a Londra sarebbe molto importante. Tutti i giorni ci arrivano decine di dossier di alberghi in giro per il mondo, ma vicino agli aeroporti, vicino alle autostrade, non è il genere nostro d'albergo. Noi cerchiamo un albergo che sia posizionato nel centro delle città e che possa, con i giusti investimenti, avere lo charme degli alberghi che abbiamo già noi in Italia. Questo ovviamente rende la scelta e la ricerca molto difficile, però io sono fiducioso sul fatto che lo troveremo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.